Capitolo 9. Una serata al faro di Four Winds. Era settembre inoltrato quando Anne e Gilbert riuscirono a compiere la visita promessa al faro di Four Winds. Avevano spesso progettato di andarci, ma erano sempre stati costretti a rimandare. Parecchie volte il capitano Jim aveva fatto un salto alla loro casetta. «Dobbando ai complimenti, Madame Blythe», disse ad Anna. Mi fa un gran piacere venire qui e non intendo sacrificarmi solo perché voi non siete ancora venuti da me. Calcoli del genere non devono esistere per quelli della razza che conosce Giuseppe. Io verrò quando potrò e voi verrete quando potrete. Basta fare qualche bella chiacchierata e poi non importa quale tetto abbiamo sopra la testa. Il capitano Jim si innamorò di Gog e Magog, che custodivano il focolare della casetta con la stessa gravità e nobiltà dei tempi di Patty's Place. Sono di una simpatia straordinaria, diceva incantato, e non mancava di salutarli, arrivando o andando via, alla stessa stregua dei padroni di casa. Il capitano Jim non avrebbe mai offeso i numi domestici, mancando loro di rispetto. Questa casetta lei l'ha resa quasi perfetta, disse ad Anna. Madama Selwyn aveva gusto e faceva miracoli, ma a quei tempi non c'erano le tendine, le stampe e i ninoli di adesso. Elizabeth poi viveva nel passato. Ora qui dentro con lei è entrato il futuro. Quando vengo qui mi accontenterei anche di restarmene zitto a guardare i suoi quadri, i suoi fiori e lei è bello, bello. Il capitano Jim era un cultore della bellezza. Le cose belle che udiva o vedeva gli procuravano una profonda gioia interiore da cui prendeva luce tutta la sua vita. Era pienamente consapevole del proprio aspetto sgraziato e se ne dispiaceva. Dicono che sono buono, fu in un'occasione il suo commento ironico, ma a volte vorrei che la provvidenza mi avesse fatto un po' meno buono e un po' più bello. Ma è un bravo capitano e sa quello che fa. Qualche persona brutta deve pure esserci, altrimenti quelle belle come la nostra Madama Blythe non farebbero la loro figura. Una sera, finalmente, Anna e Gilbert si avviarono a piedi al faro di Four Winds. La giornata era incominciata con la nebbia e un cupo cielo di nuvole grigie, ma era terminata con un magnifico tramonto rosso e oro. A occidente, sopra le colline, lo sfolgorare del sole calante si temperava in intense tonalità ambrate e delicate trasparenze. A settentrione, il cielo a pecorelle era disseminato di fiammanti nuvolette d'oro. La luce rossa incendiava le vele bianche di una nave che lasciava la baia alla volta di un paese del sud, là dove crescono le palme. Poi accendeva di scarlatto le nude e bianche dune. Illuminò a un tratto la vecchia casa tra i salici presso il ruscello e per un breve istante le donò splendide vetrate degne di un'antica cattedrale. Rifulgevano sul quieto sfondo grigio, come i pensieri pulsanti di un'anima ardente prigioniera di una tetra oscurità. Quella vecchia casa vicino al ruscello mi dà un senso di tristezza, disse Anna. Non ci vedo mai nessuno. È vero che il viale di accesso sbocca sulla strada di sopra, ma non credo che ci sia un grande andirivieni. È strano che non abbiamo ancora incontrato i Moor, già che stiamo a un quarto d'ora di cammino. Magari li avrò visti in chiesa, però non sapevo che fossero loro. Peccato che siano così poco socievoli, dato che sono i nostri vicini più prossimi. Evidentemente non appartengono alla razza che conosce Giuseppe, disse Gilbert con una risata. Hai mai scoperto chi fosse quella ragazza tanto bella? No, mi sono sempre dimenticata di chiedere informazioni, ma non l'ho più vista, quindi probabilmente non era del posto. Oh, il sole è appena calato ed eccoci al faro. L'oscurità andava infittendosi e potenti fasci di luce irradiavano nel loro moto circolare i campi, la baia, la barra di sabbia e il golfo. È come se volesse trascinarmi in alto mare, disse Anna nel momento in cui un raggio li inondò di luce. Provò un senso di sollievo quando, avvicinandosi al promontorio, furono al riparo da quegli accecanti lampi ricorrenti. Avviandosi lungo il sentiero, tra i campi che conducevano al campo, incrociarono un uomo che veniva in senso opposto. Era una figura così poco consueta che non poterono fare a meno di osservarlo, stupiti. Era decisamente un bell'uomo, alto, con spalle larghe, Bei lineamenti, un naso classico, sinceri occhi grigi e gli abiti della festa di agricoltore benestante. Fin qui corrispondeva al classico tipo di Four Winds o di Glen, però sul petto gli scorreva il fiume di una riccia barba bruna, lunga quasi fino alle ginocchia, e da un normalissimo cappello di feltro spuntava una cascata di folti e mossi capelli bruni che coprivano interamente la schiena. Anna, bisbigliò Gilbert appena il personaggio si fu allontanato. Sei certa di non aver messo nella limonata che mi hai dato prima di uscire del cordiale scozzese, per dirla come lo zio Dave? Ma certo, disse Anna, trattenendo il riso per non farsi udire dall'enigma vivente. Chi mai sarà? Non lo so, ma se il capitano Jim tiene dei fantasmi del genere quassù, la prossima volta mi porterò un pezzo di ferro in tasca. Non era un marinaio, altrimenti gli si potrebbero perdonare le sue stranezze. Deve appartenere a qualche famiglia dall'altra parte della baia. Lo zio Davy dice che ci sono molti tipi originali laggiù. Secondo me lo zio Davy è un po' prevenuto. La gente dall'altra parte della baia che viene in chiesa Glen è tutta gente come si deve. Oh, Gilbert, non è una meraviglia! Il faro di Four Winds sorgeva su uno sperone roccioso di arenaria rossa, affacciato sul golfo. Su un lato, al di là dell'ingresso al porto, si stendeva l'argenteo arenile della barra. Sull'altro correva un'ampia insenatura con rocce rosse che cadevano a strapiombo sul litorale sassoso. Era una spiaggia che conosceva la magia e il mistero delle tempeste e delle stelle. C'è un senso di solitudine in una spiaggia così? I boschi non ispirano mai solitudine, sono pieni di una vita segreta, invitante, cordiale, ma il mare è un'anima possente che geme senza posa per un grande dolore tutto suo, racchiuso eternamente negli abissi. A noi non è dato penetrarne l'infinito mistero, possiamo solo aggirarci timorosi e incantati ai suoi confini. Il bosco ci chiama con 100 voci, ma il mare ne ha una sola, una voce che assorbe la nostra anima nella sua musica maestosa. I boschi sono umani, ma il mare fa parte della razza degli arcangeli. Anna e Gilbert trovarono il capitano Jim seduto su una panca all'aperto, intento a dare gli ultimi tocchi a uno splendido modellino di goletta completo di vele. Si alzò e li accolse nella sua dimora con la sentita e spontanea cortesia che lo contraddistingueva. È stata una bella giornata oggi, Madama Blythe, e ora arriva il meglio. Volete sedervi un po' qui fuori finché c'è luce? Ho appena finito questo giocattolino per il mio pronipote di Glen, glielo avevo promesso, ma poi mi sono pentito perché la madre era seccata. Ha paura che gli venga l'idea di andare per mare da grande e non vuole che abbia incoraggiamenti. Ma cosa potevo fare, Madama Blythe? Gliel'avevo promesso. E non si può non mantenere le promesse che si fanno ai bambini. Sedetevi, il tempo passa presto qui. Soffiava un vento di terra e lunghe onde argentee increspavano la superficie del mare. Dalla costa, mobili ombre lucenti venivano spinte al largo come ali trasparenti. Il crepuscolo stendeva una coltre di oscurità violetta sulle dune e i promontori affollati dai gabbiani. Il cielo era appena velato da un vapore serico. Le flotte di nubi restavano all'ancora all'orizzonte. Una stella serale vegliava sulla barra. Non è un panorama che merita, disse il capitano Jim con l'orgoglio del padrone. È lontano da tutto qui. Non si compra, non si vende, non si pensa a guadagnare. Non c'è nulla da pagare. Tutto questo mare e questo cielo sono gratis. Non vogliono denaro e non hanno prezzo. E poi tra poco sorgerà la luna. Non mi stanco mai di veder sorgere la luna sulle rocce, sul mare. E sulla baia ogni volta c'è una sorpresa. Attesero il sorgere della luna e osservarono il magico momento in un silenzio che non aveva bisogno di parole. Poi salirono in cima al faro e il capitano Jim spiegò loro il meccanismo luminoso. Infine si riunirono nella sala da pranzo, dove un fuoco di legna raccolta sulla spiaggia tesseva ondeggianti e mutevoli trame di fiamme dalle tinte svariate. «Il caminetto l'ho messo io qui», puntualizzò il capitano Jim. «Il governo non concede lussi del genere ai guardiani dei fari. Guardi che colori dà questa legna. Se le fa piacere della legna raccolta sulla spiaggia, gliene porto un carico io, Madame Blythe. Sedetevi, sedetevi, vado a prepararvi una tazza di tè». Il capitano Jim presentò ad Anna una sedia, dopo averla sgomberata da un gattone rossiccio e da un giornale. «Via di qua, secondo, sai che il tuo posto è sul sofà. Devo mettere da parte questo giornale perché non ho ancora trovato il tempo di finire il racconto. Si intitola Un amore folle. Non è il mio genere preferito, ma lo leggo per vedere se va ancora per le lunghe. È al 62° capitolo e a quanto pare le nozze sono ancora molto lontane. Quando viene qui, il piccolo Joe vuole sentire solo storie di pirati. Strano, vero? I bambini, che sono creature innocenti, preferiscono i racconti di ferocia. Oh, proprio come Davy, disse Anna, vuole storie che grondano sangue. Il tè del capitano Jim si dimostrò sublime. Il vecchio era contento come una Pasqua dei complimenti di Anna, ma ostentò indifferenza. Il segreto sta nel non lesinare la crema di latte, commentò con disinvoltura. Il capitano Jim non aveva mai sentito nominare il saggista Oliver Wendell Holmes, ma evidentemente condivideva il motto dello scrittore secondo cui un cuore grande ha sempre respinto una lattiera piccola. Abbiamo incrociato uno strano personaggio sul sentiero per venire qui, disse Gilbert mentre gustavano il tè. Chi è? Il capitano Jim sorrise. È Marshall Elliot. Degnissima persona, ma ha una punta di pazzia. Vi sarete chiesti per quale motivo si concia come un fenomeno da museo degli orrori? È un moderno nazareno o un profeta ebreo sopravvissuto al passato? Chiese Anna. Niente di tutto questo. C'è la politica alla base della sua stranezza. Tutti gli Elliot, i Crawford e i McAllister sono politicanti consumati. Nascono liberali o conservatori, secondo i casi. Restano liberali o conservatori per tutta la vita e muoiono liberali o conservatori. Che cosa faranno in cielo dove non c'è politica? Non riesco proprio a immaginarmelo. Marshall Elliot è nato liberale. Anch'io sono moderatamente liberale, ma Marshall moderato non lo è affatto. 15 anni fa ci fu un'elezione generale parecchio combattuta. Marshall lottò per il partito con le unghie e con i denti. Era sicuro al 100% che i liberali avrebbero vinto. Era tanto sicuro che prese la parola in un'assemblea pubblica e dichiarò che non si sarebbe più fatto la barba o tagliato i capelli finché i liberali non fossero andati a governo. Beh, non ci riuscirono, non ci sono ancora riusciti e il risultato l'avete visto con i vostri occhi. Marshall è stato di parola. E che ne pensa la moglie? Chiese Anna. È scapolo, ma anche se fosse sposato, a mio vedere, la moglie non riuscirebbe a fargli rompere il voto. Questi Elliot sono sempre stati cocciuti più del normale. Il fratello di Marshall Alexander aveva un cane che gli stava molto a cuore e quando morì voleva farlo seppellire nel camposanto in mezzo agli altri cristiani, per dirla come lui. Naturalmente non glielo permisero. Allora lo seppellì vicino alla staccionata del cimitero e non varcò mai più la soglia della chiesa. Ma la domenica portava la famiglia in chiesa e si sedeva ai piedi della tomba del cane e leggeva la Bibbia per tutta la durata della funzione. Dicono che sul letto di morte chiese alla moglie di seppellirlo accanto al cane. Poverina, era tanto remissiva, ma quella volta si infuriò. Gli disse che lei si rifiutava di farsi seppellire vicino a un cane. E se lui preferiva il riposo eterno accanto al cane anziché accanto a lei, tanto valeva che lo dicesse subito. Alexander Elliot era un mulo cocciuto, ma voleva bene alla moglie, così si arrese e disse: accidenti a te, seppelliscimi dove vuoi. Ma quando l'arcangelo Gabriele suonerà la tromba del giudizio, sono sicuro che il mio cane risorgerà con tutti noi, perché aveva più anima lui di qualsiasi Elliot, Crawford o McAllister di questo mondo. Furono queste le sue ultime parole. Quanto a Marshall, ci siamo abituati. Ma agli estranei deve sembrare proprio parecchio strano. Lo conosco da quando aveva 10 anni, ora ne ha circa 50, e ci vado d'accordo. Oggi siamo stati a pesca di merluzzi. Ormai riesco a far poco, solo a prendere qualche trota e qualche merluzzo ogni tanto, ma un tempo era proprio tutta un'altra cosa. Era un tipo in gamba, come ammetterebbe anche lei se vedesse il romanzo della mia vita. Anna stava giusto per chiedere com'era questo romanzo quando il secondo creò una digressione saltando sulle ginocchia del capitano Jim. Era uno splendido animale, con un faccione tondo da luna piena e luminosi occhi verdi e grossi zamponi bianchi. Il capitano Jim gli accarezzò il dorso lucido. Non ho mai avuto molta simpatia per i gatti finché non ho trovato il secondo, commentò con il sottofondo delle fusa sonore del secondo. Gli ho salvato la vita, e quando si salva la vita una creatura si è costretti ad amarla. È quasi come donare la vita. A questo mondo c'è della gente tremendamente trascurata, Madama Blythe. Certa gente di città che ha la casa delle vacanze nella baia è tanto trascurata da diventare crudele. È la crudeltà peggiore quella che nasce dalla trascuratezza. Non c'è modo di combatterla. Durante l'estate tengono i gatti in casa, li nutrono bene, li viziano e li agghindano con nastri e collarini, poi in autunno partono e li lasciano a morire di fame e di freddo. Mi ribolle il sangue solo a pensarci, Madama Blythe. Un giorno, l'inverno scorso, trovai una gatta morta sulla spiaggia. Erano nicchiati vicino a lei corpicini pelle e ossa di tremicini. Era morta, cercando di proteggerli. Li circondava ancora con le zampe rigide. Cielo, mi vennero le lacrime agli occhi. Poi portai a casa quei poveri gattini, li sfamai e li sistemai presso gente come si deve. Conoscevo la donna che aveva abbandonato la gatta e quest'estate, quando è tornata, sono andato laggiù da lei e le ho detto quel che pensavo. Sono stato un vero e proprio impiccione, ma mi piace fare l'impiccione, se è per una buona causa. E come l'ha presa? Chiese Gilbert. Si è messa a piangere, ha detto che non pensava. Allora le ho detto, secondo lei sarà una buona scusa nel giorno del giudizio, quando dovrà rendere conto della vita di quella povera madre? A mio vedere, il Signore le dirà che il cervello gliel'aveva dato proprio per pensare. Sono sicuro che un'altra volta non lascerà i gatti a morire di fame. Il secondo è un trovatello? Chiese Anna, allungando una carezza all'animale che fu accolta con regale condiscendenza. Sì, lo trovai in un gelido giorno d'inverno, imprigionato tra i rami di un albero dallo stupido nastrino che aveva al collo. Era quasi morto di fame. Se avesse visto che occhi aveva, Madama Blythe. Era ancora piccolo, ma era riuscito a cavarsela da solo finché non era rimasto attaccato all'albero con il collare. Quando lo liberai, mi diede una commovente leccata alla mano con la linguetta rossa. Non era ancora il lupo di mare che è adesso, era mogio, come Mosè. Sono passati 9 anni, tanti per un gatto. È un buon vecchio compagno, il mio secondo. Avrei creduto che aveste un cane, disse Gilbert. Il capitano Jim scosse il capo. Avevo il cane un tempo. Mi stava tanto a cuore e quando morì non mi venne nemmeno in mente di prenderne un altro al posto suo. Era un vero amico, capisce, Madama Blythe? Il secondo è un compagno. Sono affezionato al secondo, anche per quello spiritaccio diabolico che ha, come tutti i gatti, ma al mio cane volevo bene, davvero. Ho sempre dato ragione in segreto ad Alexander Elliot a proposito del suo cane. Non c'è niente di diabolico in un buon cane. A mio vedere, è per questo che sono più benvoluti dei gatti, ma mi taglio il collo se sono altrettanto interessanti. Ecco che parlo di nuovo troppo. Perché non mi interrompete? Quando incomincio a parlare non riesco più a fermarmi. Se avete finito il tè, avrei delle cosucce da farvi vedere che non dovrebbero dispiacervi. Le ho raccolte quando andavo ficcando il naso negli angoli più strani della terra. Le cosucce del capitano Jim erano in realtà un'interessantissima collezione di oggetti curiosi, orrendi, bizzarri e belli, e quasi tutti erano legati a una storia singolare. Anna non avrebbe più dimenticato l'incanto dei racconti ascoltati nella notte di luna presso il fuoco magico di legna dall'aroma salmastro, mentre il mare d'argento inviava il suo richiamo attraverso la finestra aperta e si frangeva singhiozzando sulle rocce della scogliera. Il capitano Jim non si vantava mai, ma era impossibile non comprendere che quell'uomo era stato un eroe, coraggioso, leale, intraprendente e generoso. seduto in quella piccola stanza, faceva rivivere oggetti agli occhi degli ascoltatori. Bastava alzare un sopracciglio, piegare un labbro, compiere un gesto, pronunciare una parola per dipingere davvero una scena o un personaggio. Alcune avventure erano talmente straordinarie da far dubitare in segreto Anne e Gilbert che il capitano Jim esagerasse prendendosi gioco della loro credulità, ma scoprirono in seguito di averlo giudicato male. I suoi racconti erano assolutamente veri. Il capitano Jim era un narratore nato e aveva il dono di riportare all'antica immediatezza tristi cose lontane. Anna e Gilbert risero e rabbrividirono per quei racconti e una volta Anna si trovò con le lacrime agli occhi. Il capitano Jim la osservò, raggiante. «Mi piace vedere piangere così la gente», commentò. «Per me è un complimento, ma non so rendere giustizia a quello che ho visto, che ho fatto con gli altri». Ho annotato tutto nel romanzo della mia vita, ma non so scrivere bene. Se sapessi trovare le parole giuste e metterle in fila sulla carta, farei un gran libro. Batterebbe di molto Un amore folle. Viaggio piacerebbe come le storie dei pirati. Eh sì, ne ho avute avventure ai miei tempi e sa, Madama Blythe, ne ho nostalgia. Sì, vecchio e inutile come sono, certe volte mi prende un desiderio terribile di salpare l'ancora e navigare. Navigare. Per sempre, come Ulisse, far vela oltre il tramonto, dove si tuffano le stelle d'Occidente e poi morire, disse Anna in tono sognante. Ulisse? Ho letto di lui sui libri. Sì, è quello che sento, che sentiamo noi vecchi marinai, ma poi finirò per morire a terra. Beh, sarà quel che sarà. C'era il vecchio William Ford di Glen che non era mai andato per mare in vita sua perché aveva paura di affogare. Glielo aveva predetto un'indovina. Poi un giorno svenne e cadde a faccia in giù nel trogolo della fattoria e affogò. Dovete andare? Tornate ancora e presto. La prossima volta lascerò parlare il dottore. Sa un mucchio di cose che mi interessano. A volte sono un po' solo quassù. Ed è stato peggio dopo che è morta Elizabeth Russell. Io e lei eravamo buoni amici. Il capitano Jim parlava con la commozione degli anziani che vedono sparire uno ad uno i vecchi amici. Amici che non possono essere sostituiti da persone più giovani, anche se della razza che conosce Giuseppe. Anne e Gilbert promisero di tornare ancora e presto. È un uomo straordinario, vero? Disse Gilbert sulla strada del ritorno. Però non riesco a conciliare la sua personalità dolce e semplice con la rude vita avventurosa che ha vissuto, riflette Anna. Ti sarebbe più facile se l'avessi visto l'altro giorno al villaggio dei pescatori. Uno degli uomini della barca di Peter Gautier ha fatto un pesante apprezzamento su una ragazza che era a riva. Poco ci è mancato che il capitano Jim incenerisse il malcapitato con lo sguardo. Sembrava diventato un altro. Non ha detto molto, ma come lo ha detto? Sembrava che volesse pelarlo vivo. A quanto pare il capitano Jim non tollera che si manchi di rispetto a una donna in sua presenza. Chissà perché non si è mai sposato, disse Anna. Ormai dovrebbe avere dei figli suoi che navigano e i nipoti in braccio per ascoltare i suoi racconti di mare. Non fatico a immaginarlo così. E invece ha solo un magnifico gatto. Ma Anna sbagliava. Il capitano Jim aveva molto di più, aveva una buona memoria.